siamo sulla strada giusta. Sappiamo che all'inizio abbiamo fatto, se si può dire, tanti danni e ora dobbiamo cercare di rimediare e di fare il meglio possibile. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Prepariamo una settimana particolare, molto importante. Purtroppo ieri non siamo riusciti a vincere la partita, ma adesso dobbiamo pensare esclusivamente a preparare al meglio questa partita delicata, importante e difficile. È inevitabile che comunque giocatori importanti o comunque campioni possano poi dare la possibilità alla squadra di essere più performante. Insomma, è come se togliessimo Lukaku all'Inter, Immobile alla Lazio, Cristiano Ronaldo alla Juventus, Zeko alla Roma. Che è chiaro che questi qua sono riferimenti importanti, come Zlatan lo è per noi. Ibra, per me è normale la cosa che lui fa a 38 anni, perché io sai come lui lavora ogni giorno. A 38 anni, quando fa la cosa che lui ha fatto all'MLS, a Manchester, a 36 anni, a Paris Saint-Germain, quando io arrivo a Manchester, il consegno che lui mi dà ogni giorno sono per me la cosa più bella. Essendo stato amministratore delegato nei 2 anni di Ibra, so bene quanto conti, oltre che per quello che fa in campo, per quello che fa nello spogliatoio e come da esempio e da stimolo ai suoi compagni. Mi ricordo quando pendeva al muro i suoi compagni che non si allenavano con intensità. Penso che non abbia perso questa buona abitudine. Beh, usciamo dagli strilli della domenica, da quella palude, passando attraverso la vittoria del Napoli, molto meno pallido del solito, in chiara ripresa, e apriamo così la settimana del derby, prima di un ciclo, la prima partita di un ciclo, la prima tappa di un ciclo che ci dirà chi è l'Inter. Ciao Pierluigi Pardo, buongiorno. Ciao, guarda, una sorpresa subito, che Demetrio qui vicino a me, al quale chiedo subito il possibile della nazionale, non solo di padel, che ormai è il suo sport principale, ma di calcio. Ieri panchina d'oro, partiamo da qui. Sì, buongiorno a tutti. Ciao Demetrio. Ciao. Dunque, panchina d'oro, Gardini. Dunque, Paolo Condò, buongiorno. Ciao Carlo, ciao Pier, ciao Demetrio. Allora, a Paolo Condò la prima domanda, a Demetrio Albertini. Vai Paolo, cosa vuoi sapere? Allora, Demetrio Albertini entra in un Milan che è un grandissimo Milan, però lui porta immediatamente la sua qualità. Volevo sapere se questo, che non è più un Milan grandissimo, ecco, però ci sono dei ragazzi che sono entrati non dal vivaio come lui, però comunque sono entrati, naturalmente penso a Fernandez, penso a Bennacer, che più o meno ricalca quello che era il suo ruolo. Ecco, tu in questi nuovi, quelli nuovi di quest'anno, vedi il talento in prospettiva da vero Milan? Dopo tanti anni la prima cosa è capire da qual è il vero Milan, nel senso, perché poi dopo si fanno sempre i paragoni su una cosa che abbiamo già scritto la storia e sempre diventa un paragone ingombrante. Questa è la cosa più sbagliata forse in questo momento a questi ragazzi, che sicuramente hanno del talento, assolutamente, però bisogna pensare alla crescita del singolo e alla crescita anche di squadra, perché uno può anche migliorare e fare bene, se tu non raggiungi degli obiettivi con la tua squadra, ma alla fine può sembrare una crescita minore di quello che invece è il valore del giocatore. Com'era la tua settimana tipo del derby? Come lo preparavi? Come lo preparavo? La prima cosa è sicuramente pensare che questa non è una partita normale. È vero che lo dico io, da uno che è cresciuto nel settore giovanile del Milan, e quindi a sentirsi anche la responsabilità di quello che gira intorno a un derby. Immaginate che io ho fatto 4 derby in 4 città differenti, perché Madrid, Barcellona, Roma e Milano, e ogni volta ho vissuto un derby differente, naturalmente quello del Milan ancora di più, ma ho sempre percepito questa partita come non solo i tre punti, ma un qualcosa che segnava una svolta anche per la stagione. Come valuti l'ingresso di Ibra nel Milan? Ecco, abbiamo sentito prima. Siamo al sushi, guarda, è appena al sushi, poi al sushi. Allora lo chiedo a Paolo Condò. Ibra al Milan, impatto. Beh, noi Ibra non parti è troppo facile come titolo, Paolo. Sì, insomma, era abbastanza atteso che succedesse questo, nel senso che almeno per il momento è l'impatto carismatico quello che ha fatto maggior rumore, l'impatto carismatico che ha dato coraggio a tutta una serie di ragazzi che le loro doti evidentemente le avevano, ma mancava loro il perno, no? Il perno al quale attaccarsi per cominciare un po' a sviluppare questo talento. La presenza di Ibra lo ha, ha portato a questo effetto, e lo hai visto anche purtroppo per il Milan non soltanto in positivo, cioè nelle partite in cui Ibra c'è stato, ma anche quando Ibra improvvisamente è mancato qualcosa anche nello sviluppo del Milan. Sì, questo è evidente, recupererà con ogni probabilità per il derby Handanovic, vediamo. Leggevo oggi Arrigo Sacchi sulla Gazzetta, che scrive di capolista in crescita, rivali pure. A me che la capolista sia in crescita non sembra poi molto. Pierluigi, ci sei? O sei al preso? No, sono qui, la capolista, intendi la capolista capitale, la Juve, secondo me è in crescita, nel senso che secondo me l'altro giorno ha giocato una buona partita, poi si è parlato di tutto meno che della partita. Io credo che una chiave fondamentale è Douglas Costa. Douglas Costa è un giocatore che per l'idea di Sarri secondo me è fondamentale, è decisivo, si è quasi scusato nel post partita, ha usato la parola bestemmia, perché certamente il Dybala di quest'anno la tenere in panchina è complicatissimo, però Douglas Costa riallarga secondo me il campo delle opzioni tattiche a disposizione di Sarri, e soprattutto rende la Juve tatticamente molto più simile a quella che c'è nella filosofia di questo allenatore. E poi ovviamente stiamo parlando di un giocatore che quando è in giornata fa cose importantissime, perché non ce ne sono molti così, con quella velocità, con quella capacità di saltare l'uomo, con quella anche capacità di dare copertura, perché è chiaro che se giochi con i tre con Douglas Costa davanti hai sicuramente più protezione che se giochi con Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo. È mancato moltissimo e secondo me questa è una chiave importante. Poi non lo so, vedremo, però potenzialmente questa può essere una svolta secondo me per la Juve, non in tutte le partite ma in molte partite può essere importante. Un po' di crescita secondo me c'è, è chiaro che aspettiamo un po' di continuità in più, nel senso che la crescita io l'avevo vista pure in Coppa Italia contro la Roma. Beh, quello sì, le partite di Coppa Italia sono state un po' uno specchio quasi deformante, no? Lì abbiamo visto la Juve più bella, onestamente. Ha qualche sbalzo d'umore che nel passato non aveva, però io ripeto, cito Condò, cioè Condò mi ricordo benissimo in un collegamento a ottobre diceva una cosa che faccio mia assolutamente, cioè Sarri è stato preso per cambiare passo nelle grandi partite europee, quindi nell'aumentare il livello di questa squadra da marzo in poi, da febbraio in poi. Sì. Stiamo arrivando a quel momento, ricordatevi la Juve di Allegri col famoso svolta di Juve-Lazio, siamo lì, poi se succederà non lo so, quello che è certo è che quest'anno la Juve non avrà tantissimo tempo per poter fare gli esperimenti, perché no, ma si tratta di capire a che punto è il work in progress, no? Perché mi ricordo bene quando Paolo disse quella roba, il work in progress ha necessità di trovare la grande avversaria per capire effettivamente a che punto è arrivato. Cioè io non... Cioè confronto diretto, dici tu. Sì, il confronto diretto. La stagione della Juventus vira su 5 partite, speriamo che siano 5, le auguro che siano 5, ovviamente. E cioè questo perché ritengo che il Lione sarà ancora un avversario nettamente inferiore. Quindi io parlo di quarti, e poi se ti vanno bene nei quarti le semifinali, se ti va bene le semifinali, la finale di Champions. Cioè io voglio vedere Juventus-Liverpool. Io voglio vedere, secondo me la verità si saprà soltanto quando ci sarà Juventus Real Madrid, Juventus Liverpool, Juventus Barcellona, premetto che io spero che eventualmente ci sia Napoli Juventus, spero che Napoli butti fuori il Barcellona e l'Atalanta il Valencia, però siccome io credo che alla setacciata finale la squadra italiana che ha maggiori probabilità di arrivare sia la Juventus, ecco, io ti dico Juventus-Liverpool come partite a simbolo, ecco. Sì, secondo me è lì che vedremo, perché alla fine di tutto Allegri salta per Juventus Ajax, non per altro. Certo, Allegri salta per un rischio calcolato che la Juve si prende, una scommessa calcolata che la Juve fa l'anno scorso, di rinunciare a un po' della sua comfort zone e delle sue certezze in campionato, sparigliare per provare ad avere un altro passo, un'altra mentalità nelle grandi partite europee. È proprio una scommessa fatta a tavolino, assolutamente legittima, e il risultato lo vedremo solo a marzo. Qualche exit poll, devo dire la verità, ce l'abbiamo avuto nella prima parte della stagione. Onestamente la Juve mi aveva dato la sensazione di giocare meglio soprattutto le grandi partite. Il ricordo di Inter-Juve è molto preciso, credo, della nostra testa, è stata una delle migliori partite dell'anno. Ultimamente un po' meno, contro il Napoli era una grande partita per atmosfera, per forza, secondo me, comunque dell'avversario, perché il Napoli tecnicamente è una buonissima squadra e la Juve ha fallito. Vedremo, però insomma al momento siamo agli exit poll. Ci metto anche Lione dentro, secondo me da metà febbraio in poi avremo un'idea più precisa. Siamo agli exit poll con contorno di polemiche relative. Paolo, la tua sul bosco che abbiamo attraversato dopo Juventus-Fiorentina? Allora, Juventus-Fiorentina secondo me è una partita dove c'era il primo rigore per la Juventus, non c'era il secondo. È chiaro che poi queste sono delle cose che accadono normalmente e poi il commissario è intervenuto facendo riferimento anche a partite precedenti nelle quali la Fiorentina è stata penalizzata. Secondo me Nedved, calcolando che appunto il commissario è intervenuto come goccia che ha fatto traboccare il vaso di una cosa che lui ritiene che la Fiorentina sia stata penalizzata da parecchio tempo, non occorreva che ci fosse. Ma sai benissimo che il dossier nel cassetto ce l'hanno tutti. Sì, ce l'hanno tutti, ma non io. E quindi dico che Commisso si riferiva a partite delle quali io personalmente però non ho conservato memoria. Di quello appunto di dossier. I dossier ce l'hanno tutti. No, ma i dossier ce l'hanno tutti, lo tirano fuori all'uopo. No, quando Micchi devono far valere i loro diritti. Micchi si sarebbe dovuto completamente risparmiare quella frase che ha fatto ieri sul fatto che gli arbitri sono disgustati da quello che ha detto Commisso, perché Commisso alla fine ha fatto quello che fanno tutti. Insomma, c'è stata tutta una serie di reazioni che una dopo l'altra secondo me erano una più inutile delle reazioni e scivoloni. Però lo dico anche proprio per esperienza, cioè queste ore sui social network, io credo che la Juve si senta sempre in queste situazioni tutte le volte che c'è una polemica arbitrale, cioè credo che ci sia un po' il nervo scoperto, no? E quindi io capisco che Nedved abbia fatto quella presa di posizione per evitare che diventasse un discorso soltanto legato alla Juve, come poi di fatto. Ma perché secondo te della prossima settimana tutto questo finirà? No, ma non finisce, fra l'altro io ribadisco quello che ho detto ieri, che continuo a pensare, sono perfettamente d'accordo con te, primo rigore c'era, secondo rigore non c'era, ma non è questo. Gli episodi secondo me di questo campionato sono tanti, gli errori o quantomeno le zone grigie d'ombra sono tantissime. Il vero problema, cioè ieri è Ranieri a fine partita che a proposito del fallo di mano viene lì e dice, ma insomma quanti secondi devono passare? Cioè c'è proprio un tema secondo me di incertezza del diritto, al di là dello specifico della situazione di ieri, di VAR che doveva semplificare le cose invece le ha cresciute. Io poi rimango un ultra del VAR, perché comunque è sempre meglio la tecnologia che non la tecnologia, però fra mille situazioni sulle quali si può discutere, applicazione del VAR che qualche volta c'è e qualche volta non c'è, insomma la situazione purtroppo, perché poi chi ci conosce nell'animo profondo, e penso che valga anche per Paolo e per Carlo, sa che è la cosa della quale proprio uno non vorrebbe parlare, soprattutto certo, il sogno di un telecronista, ve lo dico in assoluto, ma non solo un telecronista, ma anche di no, ma anche per noi che facciamo questo mestiere tutti i giorni. Capito, dove non ci sono episodi, perché non ce ne frega, cioè capisci proprio il concetto? vorremmo raccontare una partita di calcio, invece poi, ma questo fa parte della vita, non ci mancherebbe, fa parte venire in trasmissione il lunedì con l'elmetto non è il massimo della vita, per tutti noi, insomma. No, ma poi soprattutto volentieri su delle situazioni che molto spesso sono veramente grigie, sono veramente, perché poi quando tu parli con i giocatori, ieri sera ce ne avevamo tanti, no? Antichitaca, Ferrara, Pepe, Bobo, Ventola, Marcolin, anche i giocatori comunque, cioè, anche le regole sono un po' cambiate, è cambiato il protocollo, cioè, è veramente una situazione che non ha semplificato. Detto questo, lunga vita al VAR, però sbrighiamoci, secondo me, per rendere il regolamento un po' più chiaro, un po' più semplice, un po' meno discrezionale, perché se no andremo avanti tutta la vita così. Guardare che gli inglesi, insomma, Paolo ha scritto un libro su Guardiola e Mourinho, adesso ci arrivo. A me vedere pure Guardiola che sbrocca per il VAR fa abbastanza impressione, no? Perché, ma poi tra l'altro a me, io Paolo Godò lo penso spesso, oltre che perché è un mio amico, perché tutte le volte che vedo Guardiola contro Mourinho mi viene in mente il suo libro, e l'ultimo capitolo, quello scritto in questo weekend, è stato francamente esilarante, no? Per mille cose, perché quel video di Mourinho virale, ha fatto il giro del mondo. È lì che dopo un normale episodio di gioco, quattro che si siede in panchina con il suo, lo racconto, prova a raccontarlo per quei pochi che non avessero visto, torna a sedersi in panchina con il suo collaboratore, ridacchia, si mette a bere, il collaboratore gli dice qualcosa, nella fattispecie che Sterling aveva simulato, era già ammonito, doveva essere espulso, lui mette giù la bottiglietta e fa uno scatto, ma uno scatto vero, cioè Bolt, nei confronti del quarto uomo, e comincia a protestare come un forsennato. C'è anche Guardiola in conferenza stampa, poi gli chiedono: ma adesso l'avete perso sto scudetto? E lui fa sì con la testa: no, mi devi dire sì o no, perché io devo scrivere, ho bisogno della tua voce. Allora dice: sì, l'abbiamo perso. Insomma, mille episodi, oppure lui che protesta con il VAR. Beh, mi sa che ti toccherà aggiornare il libro. Beh, in realtà c'è un nuovo personaggio, che è Jürgen Klopp, che si è mangiato tutte e due. La verità è questa, al momento in Inghilterra e anche in Europa, visto il risultato dell'anno scorso. La cosa che volevo dire è che c'è un'utopia, e che esista solo un arbitro. Perché io ormai ho capito questo, e finché camperemo avremo questa certezza, che la difformità di giudizio non è eliminabile, o tu hai un unico arbitro che arbitra tutte le 10 partite dei giochi, che ne so, le spalmi su 7 giorni, esatto, per 2 giorni uno deve fare la fatica di arbitrare 2 partite, 3 giorni sto parlando scemente ovviamente, no ma è perfetto, cioè se tu passi dal semaforo rosso prendi la multa sempre, giusto? Non c'è la possibilità. Guarda, sono arrivato a meditare, ma non ho una risposta, datemela voi se ce la fate, proprio vedendo Tottenham e Manchester City, l'applicazione del VAR inglese, cioè che il rigore è stato deciso dal VAR e che l'arbitro non aveva dato, è stato fermato e poi ha detto: no, mi dicono dalla regia che è rigore. No, ma sei tu che hai detto, sei tu che hai immaginato. A Roma-Lazio è successa una situazione assolutamente simile, quindi voglio dire, non è così, non è una cosa così strana. Si sta andando in quella direzione, forse alla fine l'approdo inevitabile, perché comunque io continuo a pensare che giudichi meglio in una stanza un pochino asettica, senza l'adrenalina, senza la fatica, e secondo me si arriverà a quella soluzione. Pier, ti ricordi che è stato proprio Paolo Condò qui da noi a dare un'occhiata ad un futuro in cui l'arbitro centrale non sarà quello sul campo, ma sarà quello al VAR. In Inghilterra è così ormai, in Inghilterra è già così. Ma in Inghilterra però c'è un'accettazione un po' discontinua di questo strumento, sì, mi pare. È vero, però in Inghilterra quella decisione di domenica ti fa capire che in Inghilterra è già così. L'ultima parola in Inghilterra aspetta l'arbitro del VAR, non l'arbitro in campo. Sì, Paolo, però tu parlavi prima di... meglio, perché per esempio in Roma-Lazio è successa una cosa fuori protocollo, perché di fatto la decisione è stata presa dall'arbitro, mi riferisco al rigore dato e poi tolto alla Roma in avvio di secondo tempo, alla fine è stata presa sicuramente la decisione giusta, no? Quindi 9 volte su 10 l'arbitro di VAR vede meglio dell'arbitro in campo, ma per ovvi motivi di superiorità della tecnologia sulla visuale umana, perché... ma infatti Ma difatti la decisione sulla decisione ieri, per esempio, il VAR a Genova è stato anche prezioso, perché l'arbitro non aveva visto il rigore che c'era nettissimo su Quagliarella, ecco, e il VAR lo ha richiamato e ha fatto dare quel rigore. La mia convinzione a proposito del rigore alla Juventus, che io non avrei dato quel secondo, Pasqua va a rivedere al VAR, viene richiamato dal VAR e quindi va a rivedere al video. Il motivo per cui lui conferma il calcio di rigore è che nel suo intimo, per me, lui pensa: sarebbe la seconda volta che devo ammettere di aver commesso un errore, perché certo, la prima volta al fallo di mano lui era stato richiamato. Certo. Ed è quella la cosa che, a mio parere, c'entrano anche quelle componenti lì, ma d'altra parte lo spinge a concedere ugualmente, anche se richiamandolo ovviamente il VAR gli ha detto: guarda che hai commesso un errore. Sai Paolo, tu prima parlavi di non ci sarà mai uniformità di giudizio, né con questo sistema, né col solo arbitro, né eliminando l'uniformità di giudizio non ci sarà mai su episodi magari anche identici. Però il problema non è, secondo me, ritorniamo a monte, ma un discorso troppo lungo probabilmente, non è uniformità di giudizio, ma è uniformità di condivisione, di accettazione di quel giudizio. È quella che non è raggiungibile. Sì, ma però ti dico che quello che dice Paolo, secondo me, è interessantissimo ed è il tema. Cioè l'arbitro non deve sentirsi scavalcato dalla tecnologia. Guarda che io da telecronista sono la seconda persona dopo l'arbitro che si trova a dover vedere delle immagini, e molto spesso la prima immagine non chiarisce. Io l'altro giorno, nel primo replay sul primo rigore dato alla Juve, ho visto ancora il tocco col braccio destro, poi in realtà il tocco è col polso sinistro. Cioè dovremmo fare tutti pace con questa cosa qui, che ragazzi, il gioco è veloce, fortunatamente il gioco è pieno di variabili, è pieno di complessità. Basta prendere la decisione giusta e lì è stata presa la decisione giusta, perché alla fine il pallone viene preso di polso da Pessella e basta. Cioè è stata giustamente presa la decisione giusta. Cioè non si deve aver paura di questo. Io capisco che l'arbitro è stato gli arbitri hanno cominciato, quegli arbitri che vediamo in campo adesso in Serie A hanno cominciato tanti anni fa da soli sui campi polverosi di periferia, abituati a pensare a ragionare questa, da soli. Oggi non che... c'è niente di male se anche due volte vieni corretto dal VAR, non c'è niente di male secondo me. Lo so, però bisogna che anche questa realtà sia accettata dagli arbitri, il che non sempre succede. Anche di questo abbiamo parlato un sacco di volte, no? Della psicologia dell'arbitro. Ricordiamoci comunque che il protocollo parla di chiaro ed evidente errore. Ora sappiamo che in realtà questa è la vera discrezionalità. C'è chi ti chiama al VAR quando c'è soltanto qualche cosa di macroscopico e c'è chi ti chiama al VAR più spesso. Però generalmente quando l'arbitro al VAR ti richiama alla visione, vuol dire che lo considera un chiaro ed evidente errore. Sì. Altrimenti non ti richiamerebbe. Sì. Daniele, buongiorno, ascoltatore da Belluno, buongiorno. Buongiorno e grazie. Una piccola discorso sugli arbitri. Rimango sbalordito di Nicky, perché secondo me è un'ammissione di colpa. Io penso che la cosa più importante per gli arbitri è che siano le ali verso il calcio e non legate le ali verso una società o verso anche i poteri forti. Ma a prescindere di questo, io vorrei mettere anche in discussione i giocatori. I giocatori non aiutano per niente gli arbitri, appena possono si buttano per terra in un modo incredibile, e chi ha giocato calcio non è l'esfiorare, il fare, come sento alcuni commenti, ma proprio si vede proprio la voglia di dire: no, io voglio un rigore o voglio una punizione. Sì, mi viene da dire che però il giocatore, Daniele, il giocatore fa il giocatore, non è compito suo aiutare l'arbitro. Daniele ha ragione su questa cosa, perché ti devo dire che io pensavo che il principale effetto positivo dell'introduzione del VAR sarebbe stata la fine di ogni simulazione e la fine di ogni protesta smodata, perché era evidente che con una revisione continua al video, ecco, quando c'è l'errore viene chiamato. Invece le simulazioni e le proteste smodate stanno continuando o si sono addirittura accentuate sempre di più. Immagino, io non sono presente fisicamente in area di rigore, ma immagino al grido dillo a quello il video, dillo a quello il video, fatti questo. Ecco, immagino che adesso nelle aree sia questo il principale. Il dibattito sia quello lì. Anche da tante panchine, vedo anche da tante panchine allenatori saltare con cose che accadono magari nell'area opposta, quindi a 80 metri di distanza, saltare, urlare, sono strumenti di pressione psicologica come quelli di Mourinho che corre da quarto uomo a imbestialirsi dopo che gli hanno detto una cosa. Ma con un video no, perché con un video alla fine, quante volte, cioè fate mente locale, quante volte nel corso di una partita c'è l'allenatore o i giocatori che urlano era mani, e poi tu vedi le ripetizioni, non c'è neanche l'ombra di un fallo di mano. Certo. Un po' istinto, un po' ci provano, però la conclusione è che mentre il VAR, secondo me, non c'è via d'uscita, non c'è punto di ritorno, perché poi penso sempre a Roma, Borussia Mönchengladbach, l'episodio più clamoroso dell'anno in Europa League, nella fase dei gironi, non c'è il VAR e danno quel rigore incredibile al Borussia Mönchengladbach, con cui te ne accorgi continuamente, in certi casi in maniera clamorosa, dell'importanza del VAR. Sicuramente riduce gli errori, però sicuramente va corretto, va sistemato, perché in questo momento ha finito per aumentare il margine di discrezionalità, il margine di polemica, il margine di casino e in qualche caso anche il margine e la quantità di malpensanti, che è un ragionamento che io non accetto, anche perché poi insomma mi sembra, lo ripetiamo praticamente tutti i giorni, che questo campionato ad oggi non abbia nessuna direzione, gli errori arbitrali si stanno distribuendo in maniera... Certo. Secondo me molto molto molto normale, molto tranquilla, e non c'è nessuna tendenza particolare ad oggi. Molto difficile certo. Poi far passare il concetto nei confronti degli oltranzisti. Vabbè, grazie ragazzi, grazie Paolo, a presto. Grazie, ciao, davvero. Sempre un piacere. Saluto anche te, mio caro amico, ti lascio mangiare il sushi con Albertini. Salutamelo. Ci sentiamo domani. Io poi parlo di Festival di Sanremo subito dopo la borsa. Il VAR va benissimo, è che gli arbitri prima o poi dovrebbero dire abbiamo sbagliato, ma non lo faranno mai. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Grazie per il bar tour, mandatemi la tassa a casa, voglio pagare le tasse per ascoltare questi due, grazie mille, grande Turrini e Bartoletti. Perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone, perché una volta non ci porti pure me, chissà. Beh, c'è addirittura chi vuole pagare le tasse, il che già è un inedito assoluto, per ascoltare il bar tour. Whatsappisti Uberalles 349-238-6666. E d'altra parte Marino Bartoletti in questo momento è una delle grandi superstar italiane. Buongiorno, posso darle del tu? Mi devi sempre dare del tu, mio diletto allievo. C'è il sole a Sanremo, non si parla di VAR, non si parla di nicchie, non si parla di disgusto, ma si parla di bella gioventù che sta avanzando. Avete messo una canzone straordinaria, la partita di pallone, scritta da Edoardo Vianello, ma non per i Festival di Sanremo, perché Vianello scriveva solo, come sapete, canzoni estive. Vi annuncio che, in omaggio alla gioventù, stasera i primi tre ad uscire saranno Irene Grandi, Marco Masini e Rita Pavone, 61 anni di media. Si comincia con la solidità. Leo Torrini, buongiorno. Io sono qui in coda sulla Pero Corbano e giustamente il maestro Genta vorrà conoscerne il motivo di questa. Il perché? E praticamente hai presente quelle specie di caravan che vendono le bibite, no? Sì. C'era Nedved al volante di uno di questi e sta offrendo un tè a tutti i tifosi della Fiorentina in transito sulla Piero Corbano, e quindi si è creata questa coda e noi vogliamo andare invece a Sanremo. E perché vogliamo andare a Sanremo? Posso dare un'anticipazione, me lo concedi? Certo. Voi sapete che a Sanremo c'è anche una serata dedicata ai duetti. Sì. Ebbene, immaginate chi è il partner di Electra Lamborghini, che io credevo fosse la prima Lamborghini elettrica, ma mi hanno spiegato invece che è una cantante. Allora, nella serata dei duetti con Electra Lamborghini si esibirà niente poco di meno che Marino Bartoletti, lo volevo dire in anteprima. È una serata che tutti aspettiamo con passione, con entusiasmo. Marino è la Ferrari del giornalismo, il suo almanacco sul Festival di Sanremo e la Mercedes degli almanacchi, e però sarà anche lì a fare da spalla la prima auto elettrica della Lamborghini. Ma te l'ho detto. Grazie, sapete adesso cosa dovete fare la sera dei duetti, sintonizzatevi su Rai 1. Ma diabolico Turrini, come fa a sapere queste cose pur non essendo a Sanremo? Devo confortarlo dicendogli che Electra Lamborghini, nipote del grande Tonino Lamborghini, in realtà si chiama Electra Miura Lamborghini, e le è andata bene, pensa se la chiamavano con un altro dei tanti tori con cui hanno nominato quelle prestigiose vetture di Sant'Agata bolognese. Volevo ricordare, a Leo, cosa che lo farà commuovere sicuramente, che il direttore artistico occulto ovviamente ha scelto la partita di pallone per omaggiare Rita Pavone, che stupirà tutti con la sua fisicità, ve lo dico sin da adesso, perché sembra una ragazzina fra tanti rapper e tante rapper che non so come si dicono. E d'altra parte rimarrà sempre l'indimenticabile Gian Burrasca, no? Ah, sicuro, ma chiedi a Turrini se non ha mai ballato il Jegge, ma questo è un altro argomento. Ma volevo farlo piangere dicendogli che si ricorderà che la prima canzone dedicata al pallone in Italia è stata quella del Quartetto Cetra, che faceva, che è dedicata al centrattacco, ti ricordi? Me la ricordo, ma vorrei anche aggiungere, sì. Però diciamo una cosa, Marino, sempre per completezza, che quando il Quartetto Cetra incise questo capolavoro aveva bisogno di due voci baritonali sullo sfondo, e io e Marino ci unimmo perché piacevamo molto a Tata Giacobetti. Pensate, vi ricordate il grande Tata Giacobetti del Quartetto Cetra, che non va confuso, è vero, la riserva dell'Inter, della Juventus, della Lazio, era un grande artista del quartetto, e devo dire che insomma Marino interpretò molto bene quel pezzo, ma aspettate di vederlo con la prima versione elettrica della Lamborghini, no, io, sarà qualcosa di imperdibile. Io vorrei sapere quando arriverà il VAR a Sanremo, perché prima o poi arriva anche lì. Ci siamo già praticamente, Carlo, ci siamo già, però è un'ottima idea. Guarda, ci sono pullman di ogni tipo, in rappresentanza di ogni entità. Il pullman di Radio 24, peraltro rappresentata da un'ottima inviata, ci poteva Marta anche essere. Esatto, e il red carpet si sarebbe intasato come la Piero Corbano, te l'assicuro. Senti, invece ti è andata bene, perché ti sei defilato dalla tonnara ignorante, abbastanza ignorante, di questi giorni, dopo gli episodi che ben conosci. Credo che le notizie siano arrivate perfino lì a Sanremo, no? Posso dirti che sono disgustato da quello che è accaduto? Sì. Ho usato il verbo giusto? È una parola abbastanza di moda. È una parola abbastanza di moda. È incredibile come in Italia si passi dalla parte del torto persino quando si ha in qualche modo ragione, poi si ripassa ancora dalla parte del torto, perché quello che è accaduto sul campo domenica l'abbiamo visto, l'abbiamo valutato, li ho sentiti anche prima, seppur in leggera differita, che parlavate dei due rigori dati, forse c'era il primo, anzi sicuramente sì, il secondo un po' meno, però commisto, che non può sempre nascondersi dietro quella velo di simpatia che è riuscito, quell'aura di simpatia che è riuscito a instaurare, poi alla fine si è dimostrato un Ferrero qualsiasi, e questo mi dispiace sinceramente, perché è un presidente che fa del bene al calcio italiano, anche eccessivamente bene per la sua generosità. E allora, dicendo quelle cose che in America un dirigente sportivo non avrebbe mai detto, è passato dalla parte del torto. Poi ci ha pensato Nicchi a ripassare lui dalla parte del torto in questo gioco del cerino, l'arte del sorpasso. Siano disgustati, insomma. Allora, calma ragazzi, calma, siamo a Sanremo, cantiamo le canzoni di Sanremo, distraiamoci un pochino, queste saranno solo canzonette, ma quelle sono solo partite di calcio, e vabbè, anche in America. E vabbè, però cioè, c'è chi come Leo Turrini è imbestialito, no, perché la Juventus ruba. No, no, no, no, guarda, io sono qui perché c'è il Festival di Sanremo. Sì. Penso che questa cosa che irrita Pavoni, che più o meno ha l'idea di cristianità di Cristiano Ronaldo, sia protagonista del festival, è una cosa fantastica che mi riconcilia con la mia infanzia, perché ero già molto anziano al tempo del giornalino di Borrasca. Penso sommessamente, dalla coda della Prego Cormano, che sarebbe bene, ma noi lo diciamo sempre ed è inutile, se quando si raccontano le storie di sport, in questo caso di calcio, si provasse a mettere da parte la sovraeccitazione, si provasse anche ad attenuare, insomma, la carica dei rancori. Ha detto giustamente Marino, che so sta provando con Elettra Lamborghini anche in questo momento, perché sarà, ripeto, un istante di grande televisione quello che ci aspetta con il loro duetto, ma come diceva anche Marino, appunto, poi sono solo partite di calcio. Cioè, io insisto sempre su questo, ma per dico, noi, guarda, ma... c'è troppa cattiveria in giro. A me non è piaciuto nemmeno il Medved che viene fuori a dire ah, quello là si deve prendere del tè, insomma, ci dovremmo secondo me rendere conto. Mi viene in mente un vecchio film, lui è peggio di me. Ma bravo, sì, però ragazzi, ricordo, non può, però a sua volta, questo, però perdonatemi, a sua volta il commissario non può neanche dire io non parlo con Nedved, parlo solo col suo presidente, dai. Sinceramente, però Marino, io mi ricordo per la verità noi. No, però per la verità Marino, mi ricordo che tu eri molto compiaciuto quando ai tempi di Studio 1 Lelio Luttazzi disse io parlo solo con Marino Bartoletti e non con Turrini, perché Bartoletti capisce anche di Jeff e Turrini no, hai capito? Quindi poi non è che certe volte ti va bene quando uno fa valere un po' una differenza di ruoli e altre volte no, hai capito? Ecco, detto questo, spiegaci chi lo vince questo festival, perché tanto lo scudetto lo vince la Juventus, lo sappiamo tutti. L'unico vero interrogativo rimasto ancora aperto è chi vincerà il festival di Sanremo. Allora, ma anche chi vincerà il derby è un argomento di discreta attualità. Sintonizzati su stasera e vedrai che lo vincerà Diletta Leotta. Preparati a qualcosa di strepitoso, guardala con gli occhiali da sole, dal tanto che ti abbaglierà. Attenzione. Io ormai sono troppo anziano per certe visioni, capisci? Guarda, l'ormone singolo è sempre in agguato, credimi. Ma sapete che Carlo, hai notato che Marino, quando arriva a sulla riviera dei fiori, ritrova una vitalità. Del resto posso giurarvi che era già così quando io e lui partecipavamo alla prima incisione di Vola Colomba Vola di Villa Pizzi. Anche allora Bartoletti era già così sgarzolino, perché la Pizzi gli disse tu sei quello che un giorno pubblicherà il più venduto album della storia della canzone, della musica leggera italiana, no? E lui era tutto contento, perché ci vede che, a proposito di ormone, Sanremo fa molto bene Bartoletti. Vorrei passare anch'io forse. Sì, anche alcuni ascoltatori che in questo momento, cari amici che scrivono WhatsApp, stanno un po' perdendo il lume della ragione, ma questo va benissimo, gli vogliamo molto bene. So che devo salutare Marino Bartoletti perché ovviamente ha mille impegni. Saluta soprattutto quegli amici, saranno quelli che dicevano che non bisogna parlare di Kobe Bryant. Ma non puoi averne idea. Dimmi solo chi vince il derby, così poi vado avanti con Leo. È un pareggio scritto nel cielo. Ah, però, è un pareggio. Ho visto una nuvola a forma di X. Marino, buon lavoro. Senti, ti cerco grazie. Martedì, se... Ah, sicuro. Se vediamo se ci concederai udienza a me, a Leo Turrini. Fatemi sapere come è andato il derby. Ciao Marino. Ciao. Stai con me Leo, perché sì, abbiamo il traffico, e poi mi dici se anche per te sarà pareggione, e poi avremo un cantante tifoso granata. Ti ricordi quando ci incontrammo James Tanti, che ci passava quei cannoni di marijuana con i quali lui si preparava per le qualifiche? Mi ricordo che Marino tirava, diceva, ma dai, lascia un po' a me! Marino, passa quel cannone! Passa quel cannone! Passa quel cannone! Cosa vuoi che smettisca? Non si ricorda! Tutti convocati. Questi sono gli statuto, come pensa Elio Turrini. Sono molto bravi, però non ci sono a Sanremo, mi pare che Bartoletti non li abbia ammessi, ho detto correttamente, no? E non lo so, lo chiediamo al frontman Oscar Giammarinaro, che è un amico. Ciao Oscar. Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao. No, non siamo a Sanremo, no, non ci ha preso, Marino Bartoletti non ci ha voluti, purtroppo. È la verità, quindi? Sì, è la verità. Noi abbiamo provato, abbiamo presentato una canzone sul calcio, ma lui ha detto no, niente, e quindi... Hai capito? Era una canzone che parlava di commisse di Netflix, e quindi Marino ha detto no, troppa qualità. Conoscendo Oscar, sarà stata una canzone molto triste che parlava di questa parte di stagione granata, no Oscar? Sì, era una canzone veramente un po' lacrimosa, che speriamo, cioè, non vedo l'ora di comporne una invece con un po' di soddisfazioni, soprattutto per noi tifosi granata, che comunque ce lo meritiamo. Nella giornata in cui arriva Moreno Longo, uno spiraglio di luce sicuramente che intravede. Beh, ragazzo di famiglia, vinto lo scudetto primavera con il Toro, è un ragazzo del Philadelphia, è quello che insomma, proverà a riprendere quel che resta delle macerie attuali. D'altra parte, quando insomma, dopo quel 7-0 con l'Atalanta si era grosso modo capito che tutto si era rotto, che gli equilibri erano perduti, il resto è stato solo conferma. Sì, sicuramente, a quel punto lì l'unico gesto che poteva scuotere un po' l'ambiente, come sempre capita del resto, era quello di cambiare allenatore. E c'era proprio lì, due giorni dopo la partita con il Milan, forse è stato si è atteso per quello, però la partita di Lecce ha dato l'ulteriore conferma che ormai la squadra era da una parte, o un pezzo di squadra era da una parte, mm-hmm, e il mister dall'altra, e quindi quando è così era inevitabile. E per fortuna è arrivato veramente uno di noi, ma non le frasi fatte, perché Moreno è veramente un ragazzo, uno di noi, uno che sa veramente rispettare dentro quello che noi abbiamo nel cuore, quello che ci portiamo sempre, quindi si è presa una bella responsabilità sicuramente, perché rischia poi di essere l'ennesimo parafulmine, e quindi molto coraggio sicuramente. Anche lei è stato allenato da Mazzarri, non lui ma la sua Inter, almeno credo. No, ma io invece voglio spendere una parola di incoraggiamento per il Toro, perché il mio papà andava a vedere il grande Torino Philadelphia quando da giovanissimo lavorava nel capoluogo piemontese, e quindi abbiamo sempre avuto in famiglia un legame particolare con quella maglia. Penso che queste ultime vicende siano... E poi cosa ti è successo per essere diventato interista? No, beh, il papà era un uomo, come si usa dire oggi, molto liberale, lasciava liberi in famiglia di fare le scelte che si preferivano, ci mancherebbe altro. No, ma volevo dire che ha detto bene il nostro amico degli statuto, quando non puoi licenziare tutti i giocatori in una situazione di disagio non ti resta che provare a sostituire l'allenatore. È un peccato, perché il Torino, almeno fino a un paio di mesi fa, sembrava una realtà emergente nel contesto del nostro campionato. Questo tracollo ha anche qualcosa di imbarazzante, insomma, 0-7 in casa, storico, poi 4 gol presi a Lecce, insomma. E non può essere derubricato ad episodio, a scivolone, eccetera. Brutto. Però ti dovevo ancora una risposta. Io penso ovviamente che il derby lo vincerà meritatamente il Milan, no? Tu sai che per scaramanzia sono costretto a sostenere questa tesi, poi rientra anche Ibra, poi il nostro Anda, non sappiamo se... È lo stesso pronostico che mi ha fatto ieri Evaristo Beccarossi, chissà perché. Sì, penso un successo del Milan sofferto, e va bene, insomma, ecco, ci stiamo preparando. A cosa? Al successo del Milan, firmato naturalmente da Ibra. Ora ci sarà un motivo, Ibra, perché è tornato in Italia, diciamolo. Sicuramente non per eliminare la Juventus nella semifinale di Coppa Italia, perché non ce la fa, no? È tornato per fare il gol partita contro l'Inter, punto. Ma lo sappiamo tutti, hai capito? È così, è come la Nicolà del Cagliari, viene a San Siro, cosa fa? Gol, avevi dei dubbi? No, nemmeno uno, no? È così, se giocassimo contro il Bayern, Perisic fa una doppietta, ma noi siamo abituati, sopravviveremo anche a tutto questo, non ti dico poi se ci fosse un Inter PSG, è vero, con Vandanare, Pardo, Bordocampo che fanno la ola, oh, certo. Mamma mia, Oscar, tornai, Pardo non è a Sanremo. E perché credo abbia impegni qui da queste parti, ma magari una comparsata la farà con quantomeno a dare un così un incoraggiamento alla sua collega, alla sua collega diretta Leotta, no? Che lui sarà, ci ha detto Marino Bartoletti, la vera supernova della serata del festival. Oscar, chi vince il festival? Oppure scegli tu chi vince il derby di Milano? Dammi la risposta, cioè rispondi a una di queste due domande a tuo piacere: busta numero uno o busta numero due? Allora, il festival lo vincerà, è una domanda veramente non lo saprei dire, però qualche outsider, siccome è un po' di norma in questi ultimi anni. Il derby, ma non lo dico però con lo stesso spirito con quello dice Turrini, assolutamente io dico l'Inter, ma anche perché spero che sia Inter che Lazio non mollino la presa nell'inseguire la Juve, quindi ecco, ma poi penso che possa vincerlo, quindi me lo auguro, insomma. No, ma anche secondo me l'Inter è chiaramente favore di questo derby. Una cosa, se la disterremo lo vince Pavel Nedved. C'è questa sensazione che è stata la settimana di Nedved che culminerà con la sua apoteosi lì sulla riviera ligure, abbracciato Bartoletti. Vince sicuramente Pavel Nedved. Ma cosa canta? Ci fosse da fare un po' di qualche balletto, lui era molto bravo nella fase di casquet. E quindi questa me l'aspettavo, bravissimo, vedi che memoria, no, perché è stato sottolineato da molti, ma come fa Nedved a così a inalberarsi quando era il re dei cascatori in campo? Ma se è per quello, io credo che pochi di quelli che hanno giocato a pallone, cioè, non so, Totti non potrebbe parlare per un motivo, Rijkaard per un altro, vabbè, difficile poi trovare qualcuno però, che diciamo possa una parlare cosa, Carlo, per completezza, che il remake che Nedved fece dello storico pezzo di Rocky Roberts, Stasera mi butto, è stata forse la reinterpretazione più efficace della storia della musica leggera e anche del calcio. Stasera mi butto, Rocky Roberts. Vabbè ragazzi, io vi saluto. Tanto tra quando è che presenta la Ferrari, Leo? A giorni? Ricordami tra una data. Settimana, poi esattamente tra una settimana, l'11 febbraio al Teatro Valli di Reggio Emilia, è una scelta che mette insieme passione per lo sport, velocità e anche cultura. Romolo Valli è stato uno dei più grandi attori italiani del Novecento, era un emiliano, era proprio di Reggio, Mattia Binotto è di Reggio. Sarà certamente un bellissimo spettacolo nel tardo pomeriggio, quindi noi faremo il bar tour prima. L'unico problema è che tanto comunque vince la Mercedes. Ah, così come il Milan vince il derby, la Juventus vince lo scudetto, certo, e la Mercedes. E allora di che cosa parliamo a fare? Parleremo della cultura della sconfitta ed è perché è bello saper stare civilmente dalla parte dei perdenti. Preferisco diretta Leotta in abito scintillante, poi però vedremo gli argomenti. Però fateci caso, oggi comincia il Festival di Sanremo, Bar Tour. Martedì prossimo presenta una Ferrari, Bar Tour. Sarà mica un caso, ragazzi. Ha ragione quell'ascoltatore che dice: datemi le tasse da pagare, perché bisogna pagare per sentire il Bar Tour. Claudia Schiattore, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, grazie a Oscar Giammarinaro e ovviamente a maestro Leo Turrini. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Per oggi, basta. Ok.